Il programma è molto ricco di appuntamenti, sia come tavole rotonde che come laboratori per tutte le età, quindi sicuramente sul sito ognuno potrà scegliere quello che più lo interessa, però in particolare tra i vari appuntamenti che abbiamo possiamo sicuramente segnalare, proprio per come è strutturato il festival, quindi per macro categorie tematiche che vanno a risolvere tra virgolette delle problematiche del cittadino che si chiede come fare a diventare più sostenibile. Uno dei primi interventi che mi viene da segnalare è quello sulla finanza etica, perché ci sarà Banca Etica sabato mattina, che ci parlerà un po' di che cosa vuol dire finanza etica e perché è importante, proprio perché le azioni di ogni singola persona che sceglie una tipologia di finanza di questo tipo vanno sicuramente ad essere molto efficaci, no? Molto di più di quello che magari ci si aspetta in altri contesti, perché spesso si pensa di non poter fare la differenza, invece dove mettiamo i nostri soldi è importante, quindi questo sicuramente è un primo passo. Le giornate di sabato e domenica sono comunque giornate molto ricche, quindi abbiamo accennato la finanza, ma anche ci saranno dei talk sulla moda sostenibile, quindi che cosa vuol dire essere sostenibili a livello di abbigliamento, che cosa stanno facendo i brand, soprattutto italiani, per rendersi più sostenibili. Abbiamo anche degli eventi che sono legati invece al territorio, quindi in particolare alla biodiversità sul territorio locale, chi se ne sta occupando di aiutarci insomma a tutelarla, e questo è molto anche legato a quella che è anche l'uso del terreno, no? Quindi anche all'agricoltura. Questo particolare talk, che si chiama Semi di Futuro, che è biodiversità e agricoltura sostenibile, ci parleranno, spiegheranno insomma come si fa a tutelare sia la parte di agricoltura con l'agricoltura sostenibile che di biodiversità, Arvaia, Podere 101 e Podere Terra Viva, che sono tre realtà che appunto si occupano sia di agricoltura sostenibile che di tutela della biodiversità del territorio. Ci spiegheranno come si fa e che cosa vuol dire tutelare insomma la biodiversità, che cosa vuol dire agricoltura sostenibile. In realtà, proprio anche per andare avanti su le varie tematiche del festival, abbiamo anche degli interventi che riguardano come si comunica la sostenibilità. In questo ci aiuteranno alcuni green creator come l'eco-narratrice Elisa Nicoli, Ottavia Belli di Sfusi Italia e Greta Volpi e Giorgia Palmirani, che faranno un intervento appunto su che cosa vuol dire essere sostenibili, come si comunica la sostenibilità. E anche, non meno importante, bisogna essere per forza perfettamente sostenibili, perché a volte quello che si pensa è che o si fa assolutamente tutto in maniera perfetta oppure è meglio neanche iniziare, quindi in realtà sfateremo questo mito assieme a loro, che sono delle green creator, quindi si occupano proprio di questo, anche di comunicare la sostenibilità e sensibilizzare su questi temi. Andando avanti ci saranno delle presentazioni di libri del Mulino, che porterà a Cambiamenti Festival due suoi autori, in particolare Lorenzo Forni, con un libro che andrà a toccare un po' che cosa vuol dire arrivare a net zero, cioè quindi a emissioni zero, quindi un taglio diciamo, un po' più economico, e poi ci sarà Maurizio Casiraghi, che invece ci parlerà appunto anche da un punto di vista più biologico, diciamo così, che cosa vuol dire arrivare invece, che cosa vuol dire la perdita della biodiversità che stiamo vivendo in questi anni, se si può fermare, perché è importante diciamo fermarla e quindi andare poi a tutelare insomma quelle che sono le specie sia a livello locale che mondiale insomma della biodiversità. Invece per quanto riguarda le attività, noi abbiamo appena concluso una campagna di crowdfunding che è andata molto bene, ha raggiunto non solo il primo obiettivo ma è andata molto oltre, quindi ci ha permesso di coinvolgere Fondazione Golinelli per quanto riguarda invece dei laboratori per giovani e giovanissimi. Questo ci fa molto piacere, perché Fondazione Golinelli ci aiuterà a veicolare dei messaggi che sono sicuramente dei messaggi a cui noi crediamo tantissimo, e i laboratori saranno un'occasione unica per i bambini e i ragazzi di Bologna per esplorare concretamente i principi dell'economia circolare, quindi si parlerà di sperimentare direttamente i diversi impatti ambientali dei vari materiali, scoprire come funzionano le energie rinnovabili, come funziona l'idroponica, no? Quella che viene chiamata a volte anche l'agricoltura del futuro, e imparare anche a programmare dei piccoli robot che simulano il ciclo di vita di un prodotto. Questo secondo noi è molto importante, perché permette a bambini e giovani insomma di capire quali sono le logiche della circolarità, e questo contribuisce anche a formare i cittadini consapevoli e responsabili di domani. Quindi certo, perché comunque la sostenibilità è anche una questione culturale, quindi è giusto anche partire dai più piccoli, no? Sì, esattamente, cioè questo diciamo alla fine la sostenibilità poi è un concetto poi tutto tondo, se vogliamo, perché essere più attenti nei confronti dell'ambiente ci rende anche cittadini più consapevoli a tutto tondo, quindi quello che noi crediamo è che in questo modo si sviluppino anche una coscienza cittadina più forte, e siccome poi alla fine i ragazzi e i bambini sono coloro che domani dovranno, diciamo, fare delle scelte sicuramente impegnative, per quanto stiamo vedendo anche in questo periodo, sicuramente dare adesso degli strumenti per capire cosa sta succedendo e quali sono i comportamenti virtuosi da avere, sicuramente è molto molto importante. Dove trovare tutto il programma? Tutto il programma lo si trova sul sito di Cambiamenti, cambiamenti.becbo.it, oppure anche sui nostri canali social, quindi Instagram Cambiamenti Festival, oppure anche su Facebook. Sono tutti gratuiti, alcuni eventi però viene richiesta la prenotazione proprio per garantire a tutti quanti una miglior fruizione dell'evento, quindi trovate anche su Eventbrite una raccolta di tutti gli eventi che sono disponibili alla prenotazione, quindi suggeriamo a chi è interessato di prenotarli in modo tale da essere sicuro, sicura di poter partecipare, insomma, a quello che interessa.